si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io me li ricordo i fotoromanzi, mi ricordo il profumo, l'odore, il fruscio della carta dei fotoromanzi. A volte ne avevo casa piena di fotoromanzi perché ho delle zie appassionate di fotoromanzo. Poi ricordo che quando andavo dal parrucchiere a attendere mia madre, ci lasciavano un angolino a aspettare noi bambini, era sempre pieno di fotoromanzi. E mi impressionavano molto i fotoromanzi, mi piaceva queste immagini statiche che dovevano rappresentare un'emozione, dovevano rappresentare un rapporto. Vedevo questi attori impietriti nella forza di queste fotografie che dovevano esprimere un movimento che non c'era, sì, perché il fotoromanzo, che probabilmente è l'ultimo dei generi letterari inventato dagli italiani, è l'apologia del vorrei ma non posso. Nell'immediato dopoguerra, quando uscimmo disastrati ma pieni di voglia di ricominciare, tutta l'industria cinematografica italiana, che era fortemente legata al passato regime, quindi Cinecittà, era stata rasa al suolo e poi dava un po' troppo l'impressione di essere legata con un pensiero, un modo di vedere la vita che non voleva più nessuno condividere. Hollywood era un sogno lontano, non c'era una lira e quindi nacque il fotoromanzo. Il cinema senza movimento, il set cinematografico, la macchina creatrice di divi, senza necessariamente avere tutto il costo di una macchina di produzione cinematografica. Era il cinema ridotto a dei fermo immagine, ma fu meraviglioso perché il fotoromanzo permise alle nostre nonne, alle nostre mamme, alle vostre bisnonne, di voi che ascoltate, di sognare su deità appartenenti a un mondo fantastico, di aviatori, di guerrieri, di personaggi pieni di difetti ma anche pieni di fascino, che assomigliano tantissimo a quello che oggi è la rilettura sciatta e scurrile della figura del tronista. Possiamo dire che il tronista di oggi sta allo sceicco bianco. Ho un appuntamento col signor Fernando Rivoli. Dovevo dargli una ammiratrice. Volevo dargli... Come ti chiami, cara? Una bambola appassionata. Ah, delizioso! Io sono Marilena Alba Bellardi. Marilena Alba Bellardi. L'abisso stellato, anima in tumulto, cuore nella bufera, peccato e damasco, nel vortice dell'amore. Tutta la settimana aspetto soltanto il sabato che mi porti il mio giornaletto. Vado a prenderlo alla stazione, poi corro a casa, mi chiudo nella mia stanzetta... E lì incomincia la mia vera vita. Leggo tutta la notte. La vera vita è quella del sogno. Oh sì, io sogno sempre. Non c'è altro da fare laggiù. Cosa vuole? Gente volgare. I giovanotti non sanno neanche parlare, sa? Questa è la storia dello sceicco bianco, una storia succosa raccontata da Fellini. Wanda è una giovane sposina in viaggio di nozze che approfitta per andare a vedere l'eroe di tutti i suoi sogni, che è lo sceicco bianco, il cialtrone Alberto Sordi, con una moglie terribile che in realtà vorrebbe soltanto farsela, che lei vede come un'immagine da sogno, lui che va sull'altalena con questo vestito da sceicco. Lo sceicco bianco era uno dei tanti eroi dell'immaginario femminile che in realtà ne ha visti di combattenti e di guerrieri in quell'epoca, ma che aveva bisogno di ricostruirci un immaginario su temi lontani, temi antichi, sempre che sono sempre appartenuti un po' a questo ridotto recesso della fantasia dell'immaginario femminile, ma che il fotoromanzo rendeva e riportava all'attualità, dando l'illusione che appunto tutti questi divi, questi eroi, molti diventarono poi in realtà titolati e importanti attori del cinema italiano. I grandi nomi del cinema dei primi anni del dopoguerra passarono tutti per il fotoromanzo. Beh, invece per lo sceicco bianco in realtà la protagonista fu una grandissima delusione. Breaking news. Il due volte campione del mondo di ciclismo e medaglia d'oro olimpica Paolo Bettini, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Livorno, avrebbe evaso il fisco per quasi 11 milioni di euro. Secondo quanto si è appreso dalla Guardia di Finanza, il ciclista avrebbe trasferito fittiziamente la residenza nel Principato di Monaco allo scopo di sottrarre a tassazione i suoi redditi percepiti. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni di GR24. Cosa

Io ricordo che era mia mamma che aveva iniziato questa collezione, poi ho continuato anch'io. Quindi sei cresciuta a pane e fotoromanzo? Delle fotoromanze della Lancio, principalmente perché c'era Franco Gasparri, che è stato un mito per tanti anni. Io ho conosciuto la Lancio a Roma, e è stato veramente stupendo. Ha fatto dei film, interpretava Marco il poliziotto, e ha fatto diversi film, diverse serie, molto molto belli, ed era un mito perché c'erano le sue poste in tutte le camere, insomma, delle mie coetanee, insomma, e so che insomma andava tantissimo. Ha uno sguardo molto profondo e magnetico nella fissità. Sì, veramente, è stupendo. La fissità delle foto. Era grande come persona, proprio conoscendolo. E poi lui ha avuto un blocco della carriera perché ha avuto un incidente in moto ed è rimasto paralizzato per molti anni su una carrozzina, adesso non so se è ancora vivo o meno, ma proprio è andato in coma profondo per molti mesi, ha avuto una fine tragica, ma era di un bello unico. Ecco, chi ricordi di altri protagonisti? Ma ricordo Claudia Rivelli, che poi insomma era, non so se era la sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli, che era molto brava. Poi c'era Michela Rock, che era molto bella, angelica proprio. Poi adesso non mi vengono i nomi, Franco Dani. Ah, Franco Dani, vero? Sì, sì, sì, sì, sì. Ma perché avevano tutti questi capelli così gonfiati e impassibili? Sembrano i capelli di Big Jim, questi eroi di fotoromanzi, che nella realtà non erano così. Sì, gli no, uomini. Franco Gasparri non li aveva così, li aveva molto flu-flu, li aveva molto morbidi, scalati, cioè sembrava si muovessero anche sulla scena, invece altri erano più impomatati. Però chiaramente si sa, insomma, che le scene lì devono essere foto, devono posare, devono stare fermi, immobili, per cui non ci può essere, ecco, la spigliatezza che c'è poi magari in un film. Ecco perché poi Gasparri si è distinto, perché poi nel cinema era veramente stupendo, perché aveva una mobilità unica e faceva benissimo il poliziotto e avrebbe potuto farlo a vita, ecco. Purtroppo è rimasto paralizzato. Sì, paralizzato. Grazie Maya. Massimo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, vi ascolto sempre tutti i giorni. Niente, l'unica cosa che volevo ribadire è un fatto. Io da piccolino, noi avevamo un negozio di alimentari, è una cosa molto curiosa. E poi io mi ricordo che c'era un fotoromanzo, perché prima hai detto che non c'erano questi... Ci incartavate la mortadella? No, perché era un fotoromanzo che si chiamava Killing. E da lì, non so se ti ricordi, perché in pratica era una specie di criminal, vestito sempre con la tutina da criminal, ma è andato molto in voga in quegli anni 70. Io mi ricordo che avevo 12 anni, 11 anni, insomma. E probabilmente lui era un po' statico, probabilmente c'aveva tutte queste ragazze che le torturava, che probabilmente... Io ne ricordo uno che non so se può dire alla radio, sì, che era super sex. Sì, no, questo si chiamava i fixi fixi, zen, però è una cosa che apparteva era un fotoromanzo, probabilmente un fotoromanzo al mondo maschile proibitissimo. Era un fotoromanzo molto zozzo che girava in quel periodo. Ma non era zozzo, Gianluca, io mi ricordo sempre nel retrobottega questo giornaletto che girava altre settimane, mentre era proprio delle fotografie, fotoromanzo, lo arrivava, poi eventualmente le torturava, poi sì, le trascinava per i capelli, sempre, poi lui le uccideva col pugnale, cioè, giustamente, per killing, diciamo sicuramente qualche altro. Era la versione, era usato il metodo stilistico, la forma narrativa del fotoromanzo, per fare invece un sado fumetto prettamente maschile. Vabbè, grazie Massimo, della testimonianza Giorgio. Buongiorno Gianluca, io ho chiamato perché... Anche lei ha subito una forma di tortura da parte di sua nonna, mi pare. Sì, mia nonna, fantastico, perché aveva delle quantità enormi di fotoromanzi, e quando mi lasciavano, io ragazzino di 8-10 anni, mi lasciavano lì magari una settimana, io me li divoravo, praticamente leggevo 24 ore al giorno questi fumetti, ma la cosa bella è che mi immedesimavo da Dio. Nel senso, proprio ci entravo dentro, vivevo una sorta di esistenza parallela. E cosa si ricorda di quelle storie, dei protagonisti? Ricordo delle storie d'amore melense in maniera terrificante, che per me ragazzino volevano del poco, ma era proprio il concetto del vivere un mondo parallelo. Sì, avevano il loro fascino. Diciamo, non avevamo grandi stimoli in quegli anni a immedesimo, cioè non c'erano supporti alla nostra fantasia in cui potessimo Benissimo. Appoggiare la nostra fantasia. Il fotoromanzo è la cosa che più assomigliava, senza esserlo fino in fondo, al movimento di un telefilm. Oggi abbiamo un'infinità di telefilm, canali dedicati ai telefilm, e spazza la nostra fantasia sugli eroi di telefilm. Allora c'era questa sorta di movimento per sequenze, cioè per foto, per fotogrammi. Del telefilm avevamo solo alcuni fotogrammi, però ci accontentavamo. Melog 2.0. Siamo arrivati, questa è la villa di Liala. Liala se l'è costruita con i diritti d'autore dei suoi 87 romanzi. Romanzi d'amore, naturalmente. I grandi scrittori e i critici sottili storcono il naso di fronte ai suoi romanzi. Ma Liala e le sue lettrici

e ricontinuare la storia. Beh, come accade in come molte accade soap, sì. Nelle soap, beh, perché il fondo il fotoromanzo è la soap opera di oggi. Forse il fotoromanzo era anche un momento più divertente. È anche molto vicino alle telenovelas che vengono appunto dal Brasile, dall'America Latina, in cui c'erano anche lì delle passioni, soprattutto nel rito, nel prolungare in maniera esasperata i dialoghi, le scene sempre nella stessa stanza. Sì, certo, anche perché bisogna pensare che allora i fotoromanzi, quando sono nati, la popolazione italiana era in gran parte analfabeta e quindi col fotoromanzo se la cavava. Beh, proprio per dare il tempo del ritmo del fotoromanzo, della narrativa del fotoromanzo, esiste una lettura satirica, un doppio salto mortale rispetto a poi la trasmigrazione dei temi del fotoromanzo in televisione, che rese celebre appunto il trio Lopez, Marchesi, Solenghi in una delle più eccelse loro interpretazioni. Ho sentito un suono. Deve essere la porta, Dolores. Sì, Pedro. Anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro. Hai sentito anche tu un suono, Dolores? Vedi, Pedro. Deve essere qualcuno che suona alla porta. Ascolta, Dolores. Io vado ad aprire la porta perché ho sentito un suono e credo proprio che sia la porta. Potremmo continuare molto e avreste delle grandi sorprese sul suono e sulla porta, ma do la linea alle informazioni del traffico, ci sentiamo tra un istante. Melog 2.0. Professor Bear! Dove andate? Oh, mia cara amica, sono venuto a portarvi il vostro libro. Un mio amico l'ha pubblicato, ha fiducia in voi e gli crede che... Non importa quello che crede, a voi è piaciuto? È talmente vero, semplice e bello. Ma non so dirvi quanto mi abbia commosso. Oh, ma andavate via senza dirmelo. Forse non vi avrei più rivisto. Vi prego, tornate. Non volevo disturbare, avete ospiti. Oh, sono tutti di famiglia. Aspettate un momento. Forse non ho il coraggio di sperare che voi, ma se solo potessi, non dovrei chiedervelo. Non ho da offrirvi che il mio cuore è pieno d'amore e queste mani vuote. Ora non lo sono più. Oh, giù. Pensare che io mi sono letto tutta la serie di Piccole donne crescono, I ragazzi di Yo e via dicendo, o di John, mi ricordo bene come si dicesse, perché erano di una mia zia, l'ultima delle mie zie, erano libri da donna, io li leggevo e mi appassionavo. Questo è un film del 94, tratte dai romanzi della Mary Alcott. Ma però Piccole donne, anche qui abbiamo un prototipo letterario di letteratura prettamente femminile. Sara Zanatta ha scritto un saggio nel libro che ho appena citato, di Franco Angeli, Una galassia rosa, ricerche sulla letteratura femminile, dedicato appunto a letteratura per le adolescenti. Buongiorno innanzitutto Sara Zanatta. Buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, Piccole donne può essere considerato anche un mattone in questa sorta di grande défilé di principi azzurri, di uomini meravigliosi e di palpiti femminili. Ma sicuramente Piccole donne, soprattutto Jo, è stato uno dei primi personaggi femminili in qualche modo indipendenti della storia della letteratura giovanile e poi è stato un modello per le prime girl stories che sostituirono in qualche modo le storie di famiglia indirizzate alle ragazze, anche se ovviamente ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti per arrivare alla rappresentazione che noi oggi vediamo nella nuova letteratura giovanile. Ecco, cioè, da ragazzi romanzi... di Jo, da cosa si è arrivati oggi? Qual è l'esito contemporaneo di questo tipo di letteratura? Beh, il punto è che nel passato il giovane diventava adulto d'amblée in qualche modo, quindi c'era una risoluzione finale dei destini nel racconto, per cui le piccole donne appunto crescevano, si sposavano, raggiungevano la loro maturità di donne, mentre in questi romanzi diciamo ci si concentra su un periodo molto limitato della loro storia, per cui l'epilogo rimane assolutamente sospeso, c'è una risoluzione dei micro eventi del romanzo, come vuole naturalmente la tradizione dell'happy end rosa, ma tutto rimane molto sospeso. E poi è entrata in campo in modo fortissimo la corporeità di queste ragazze. Il corpo è un elemento fondamentale di questi romanzi ed è un corpo dalle mille sfaccettature, perché è un corpo davanti allo specchio che continua a guardarsi, a cercare le disarmonie, è un corpo che si confronta con il corpo dell'altro, con il corpo della madre, con il corpo dell'amica, è un corpo alimentare chirurgico che è un precipitato, insomma, della nostra società e del nostro tempo. Al tempo di Jo e delle sue sorelle non si parlava di anoressia, anzi il cibo era una benedizione quotidiana, non si parlava di confronti con le madri erano sempre esseri asessuati, lontani, ormai congelate nella loro funzione materna. Carmen su Facebook mi sta scrivendo alcune delle meravigliose metafore suggestive di questo tipo di letteratura. Dice: lei ha sempre letto gli Armoni, erano molto espliciti a modo loro, cioè si ricorda queste frasi come ad esempio: l'oggetto del suo desiderio, il fiore della sua femminilità, l'acme del piacere. Ciro, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Novara, ho 25 anni. Buongiorno. Cosa leggeva lei da ragazzo? Noi, io e mio fratello, quando eravamo piccoli leggevamo il Cioè, che era praticamente una rivista prettamente femminile, perché alla fine sopra uscivano sempre braccialetti, orecchini, collanine, come regalini, no? Che finivano sempre mia sorella. Ma perché avevate un momento di incertezza di genere o perché c'avete una sorella? Come mai? No. Assolutamente, perché nelle ultime pagine poi c'era questo fotoromanzo che era a 4-5 facciate, che io e mio fratello leggevamo. Oltretutto aveva anche un costo di 4.000 lire, che era nel 93-94, quindi costava pure... Cioè invece di comprare Tex compravate Cioè, ma mica c'è niente di strano. Pronto? È soffocato dall'onta di quello che sta raccontando. Sara Zanatta, cioè questi ultima generazione di letteratura per ragazze, contenenti gadget, contenenti lettere e consigli d'amore, sono sempre ascrivibili al filone che stiamo toccando? Ma il Cioè è un must anche della mia adolescenza, direi. Sì, sono vicina a questo filone, anche se in realtà la sessualità è trattata in modo molto diverso. Cioè, secondo me, nei romanzi, almeno che io ho analizzato, quindi parliamo di collane Mondadori, tipo La Gaia, l'educazione sentimentale è fortissima e il corpo sessuale è un corpo che prima di tutto desidera qualcosa, quindi non c'è la descrizione dell'atto, c'è sì una ricerca di informazioni magari da parte della lettrice, però tutto è concentrato sul desiderio, che cosa desidero io, che cosa voglio e che cosa penso si aspettino gli altri da me. Quindi c'è una ricerca assoluta di informazioni, di conoscenza, ma il tutto è trattato anche in modo abbastanza ironico, io credo, come è giusto che sia poi. Invece con Cioè... Ma con Cioè secondo me c'è maggiormente la ricerca di informazioni, poi io ogni tanto me lo chiedevo da piccola, adesso è un bel po' che non lo compro, lo ammetto, insomma, mi chiedevo quanto in realtà quelle lettere fossero, arrivassero da delle adolescenti. Ma penso come tutte le poste dei giornali, le lettere le scrive la stessa redazione, è un editing molto spinto. Cioè anche lì c'è da chiedersi se effettivamente le richieste delle adolescenti sarebbero davvero quelle. Sì, era magari una redattrice cinquantenne che aveva problemi con il proprio consorte che scriveva: ah, come faccio, sento l'ardore non appagato per quel ragazzino dagli occhi dolci. In realtà era un ragioniere che la trascurava. Esattamente, quindi c'è un bombardamento di informazioni da una parte e una perdita del pensare anche che cosa desidero io, che è centrale nella sessualità di chiunque, cioè non parliamo soltanto di adolescenti naturalmente, però la trattazione della sessualità, che ovviamente va dal primo basso alla prima volta, è molto diversa rispetto sia agli Armoni naturalmente sia ad altro tipo. Certo, poi dalla prima volta in poi c'è molto meno sentimento, c'è molta più attività idraulica, quindi si passa ad altro tipo di letteratura, ma per questo mi scrivono molti maschi che li leggevano rubandole le sorelle proprio per questo aspetto. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ringrazio gli ospiti e gli ascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.